Tossico come un paesaggio ad Amsterdam, senza il tuo nome, te dipendenza di metadone, sento il freddo della punk a parlare, è il mio demone. Non spararti per scappare, non spararti per non soffrire, non spararti per le ore il sole, non spararti, ascolta il tuo cuore, cancelleremo insieme l'ombra che copre il cielo, non spararti e baciami, o spariamoci insieme, baciamoci le lacrime, abbracciati, noi voleremo, cancelleremo insieme l'ombra che copre il cielo, non spararti e baciami, non spararti e baciami. So che non so qualsiasi cosa pur di non sentire sulle labbra la tua mancanza del tuo bacio. Vorrei fuggire ma ogni direzione è senza via d'uscita. Tu sei un laccio al prossimo veleno. Sobrio non sto, qualsiasi cosa pur di non sentire sulle labbra la mancanza del tuo bacio. Vorrei fuggire. Non spararti per scappare, non spararti per non soffrire, non spararti per le ore il sole, non spararti, ascolta il tuo cuore, cancelleremo insieme l'ombra che copre il cielo, non spararti o baciami, o spariamoci insieme, baciamoci le lacrime, abbracciati, noi voleremo, cancelleremo insieme l'ombra che copre il cielo, non spararti e baciami, non spararti e baciami. Ma poi mi dico e riesco che torna la ragione, il leone dorme mentre la prigione che scatena il tuo nome mi fa cane. Non spararti, mi ripeto e accendo un cannone, ma poi mi dico e riecco che torna la ragione, il leone dorme mentre la prigione che scatena il tuo nome mi fa cane. Non spararti, mi ripeto e accendo un cannone. Non spararti per scappare, non spararti per non soffrire, non spararti per le ore il sole, non spararti, ascolta il tuo cuore, cancelleremo insieme l'ombra che copre il cielo, non spararti e baciami, o spariamoci insieme, baciamoci le lacrime, abbracciati, noi voleremo, cancelleremo insieme l'ombra che copre il cielo, non spararti e baciami, non spararti e baciami. Dopo tutto questo eco dentro sembra tornato il sereno, la tentazione del veleno svanisce e rimango disteso sull'erba e sul fieno. Voglio volare, cazzo, voglio volare. La medicina sembra funzionare.